Noi contiamo circa 24 milioni di persone che tutti i mesi accedono alla rete in Italia, quindi una crescita importante nell'ultimo anno, siamo cresciuti di circa il 20%, quindi un popolo che diciamo, si sta sviluppando in maniera molto accelerata, diciamo così. Questi 24 milioni sono quelli che vengono definiti utenti unici, quindi persone diverse, teste diverse. Esattamente, sono teste diverse che si collegano nel mese alla rete internet, esattamente. È interessante capire chi sono. Sono giovani, anziani, di media età, professionisti, uomini o donne? Dalla vostra fotografia che cosa emerge? Ma sicuramente c'è una concentrazione nelle fasce di età che vanno dai 12 ai 49 anni, quindi stiamo parlando di un popolo che diciamo così, non è concentrato in una fascia ristretta, cioè non sono solo i giovani che accedono alla rete, ma come ho detto si arriva fino ai 49 anni con concentrazioni molto, molto elevate. Sono più uomini che donne, sono circa 14 milioni di uomini e 10 milioni di donne, anche se le donne stanno crescendo più degli uomini, cioè il tasso di crescita è maggiore, 24% di crescita sulle donne quest'anno rispetto a un 18% di crescita sugli uomini. Un dato importante è quanto la gente consuma la rete internet. Un conto è passare una giornata su internet, un conto è passare un'ora, un conto è passarci un'ora alla settimana. In generale, gli italiani che cosa fanno? Come possiamo suddividere le varie tipologie di navigatori? Ma diciamo che mediamente i navigatori internet italiani spendono circa 22 ore online al mese, in media. C'è stato un grosso incremento perché rispetto a un anno fa spendono 4 ore in più al mese online. La maggior parte dei consumi vengono fatti da coloro che hanno la possibilità di navigare velocemente in internet, cioè hanno la banda larga disponibile, e chiaramente questi sono anche coloro che accedono ai siti del social networking o del web 2.0, come si dice, cioè quei siti che vengono fatti dagli utenti stessi, e queste persone, che sono in particolare i giovani fino ai 25 anni, anche se poi ci sono anche le fasce d'età superiori che hanno un accesso a questo tipo di siti, comunque questi spendono molto più tempo online. Questo maggior tempo speso online viene generato da una maggior frequenza di connessione, quindi delle sessioni di visita paragonabili a quella di tutti gli altri, ma visitano molto più frequentemente internet.